telefono di Natalino. Natalino, vieni avanti. Già ti sento, dove sei? Ma lo scelto il bacio d'orra. Non hai mangiato il gelato? Ti ha detto se hai mangiato il gelato? Attenzione, Natalino! Incendi! Eia! se te la faccio vedere ancora la macchina come. Comunque, ha detto buio dalle 7 di sera, l'ha già detto.